dimenticare che t'ho voluto tanto bene. T'ho saputo amare, non dimenticare. Ora di questo amore un solo ricordo t'appartiene. Gettarlo ancora fuori dal tuo cuore. Se ci separò, se ci allontanò l'ala del destino, non ne ho colpa, no, e mi sentirò sempre a te vicino. Che t'ho voluto tanto bene, forse nel mio cuore puoi trovare ancora tanto e tanto amore. Sento ancora quell'addio, ora tu non ci sei più. C'è il timore dell'oblio, puoi cancellarmi dal cuore tu. Ci allontanò l'ala del destino, non ne ho colpa, no, e mi sentirò sempre a te vicino. Non dimenticare che t'ho voluto tanto bene, forse nel mio cuore trovare ancora